Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Benvenuti in un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. Qui in studio Stefano, Camilla, ciao e tutti. Ritorno di Sara. Ciao, bentornata. Sara, bentornata. grazie. Dovete sapere che Sara è stata in Erasmus 6 mesi e l'abbiamo di nuovo con noi qui in radio per la prima volta oggi. Eh sì, e siamo molto contenti di questo. Grazie cari, mi siete mancati. Oggi lanciamo una nuova serie di puntate che sono dedicate al bene comune. Che cos'è il bene comune, insomma? Iniziamo con una, se vogliamo un po' definirlo, insomma è un tema così ampio e tante volte è difficile un po' capire quando ci si riferisce a beni comuni o meno. Allora, cioè, il bene comune, tra l'altro, non so se sapevate, è stato per la prima volta coniato da Tommaso d'Aquino. Si parla di quale anno esattamente? Intorno al 1200. Addirittura. E Tommaso d'Aquino definiva bene comune in rapporto al fine comune. E secondo me, possiamo partire da qui, e questo è un aspetto molto interessante, perché insomma, definire il bene comune come una risorsa comune, quindi come una risorsa che deve essere utilizzata da parte di più individui, che deve essere al servizio insomma di tutti, e sono risorse comunque indispensabili alla sopravvivenza umana. Oggi c'è un nuovo sviluppo del concetto di bene comune che abbraccia vari settori, tanto che Libera definisce l'antimafia bene comune, e una delle attività principali di Libera è proprio quello del recupero dei beni confiscati alla mafia. E quindi, come dicevamo poco fa, un bene comune come può essere un terreno piuttosto che un'azienda o una casa, una villa confiscata alla mafia viene restituita alla società, quindi un bene comune che viene indirizzato a un nuovo fine comune, come può essere appunto il riutilizzo sociale di tale bene. Esatto, con il coinvolgimento anche dei cittadini. Comunque poi Cami ci parlerà della sua esperienza, perché lei è stata proprio attiva in uno dei campi estivi di Libera, e più tardi magari ce ne parlerai, certo, un po'. Certo. Esatto, ma Libera si è impegnata a un tema molto caro a Libera per quanto riguarda il bene comune, è stato anche quello dell'acqua pubblica. Infatti Libera si è impegnata nella promozione dei 4 famosi sì, quando c'è stato il referendum nel 2011, perché appunto cioè, l'acqua è quando si parla di bene comune è la prima cosa che ci viene in mente, no? Cosa deve essere meno esclusivo, cosa è più indispensabile alla vita. E oltretutto la mafia è sempre pronta a usare le risorse idriche come un'arma di arricchimento e di ricatto, quindi insomma questo è stato un tema molto caro. E noi a livello di presidio ci siamo impegnati anche noi riguardo alla promozione di beni comuni, nel nostro insomma piccolo. Io purtroppo non c'ero perché ero in Erasmus, quindi Ste magari ci parla della bellissima iniziativa di Abbiamo Libera la Bellezza. Anno, anzi, che salutiamo Margherita, Francesca e Tania, hanno organizzato questa bellissima serie di conferenze con critici d'arte, con gente attiva nel mondo dell'arte, architetti, riguardo al concetto di bellezza, ma il concetto di bellezza applicato al bene comune, perché comunque sia Piazza Verdi, tutti i posti in cui abitiamo solitamente giorno dopo giorno, passiamo, anche la stessa università, alla fine sono delle cose che usiamo tutti, in cui viviamo tutti, e di conseguenza come Libera e come anche studenti universitari teniamo molto al fatto che questi luoghi che abitiamo e che viviamo siano tenuti bene, siano belli, siano vivibili e soprattutto siano alla portata di tutti. È proprio questo il concetto che abbiamo voluto sviluppare con questo ciclo di conferenze, Libera la Bellezza, perché secondo noi ciò che è bello è in genere anche pulito, legale e giusto, ed è quindi uno strumento di lotta alla mafia. Beh, adesso possiamo lanciare una canzone. E quindi vi lasciamo con Eppure Soffia di Pierangelo Bertoli. Vai. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Ecco, dopo questa bellissima canzone lanciamo qualche numero. Diamo i numeri. Diamo un po' i numeri da tempo. Allora, sono 12.946 i beni confiscati alla mafia in Italia nel 2013 e le regioni con il più alto numero di beni confiscati sono al primo posto Sicilia, Campania, Calabria, Lombardia, Puglia e Lazio. Quindi, qual è invece, Sara, la situazione dell'Emilia-Romagna? Situazione in Emilia-Romagna, solo in Emilia, appunto, quindi neanche Emilia-Romagna, solo in Emilia i beni confiscati sono stati 107 e in Bologna, e a Bologna in particolare sono 38 i beni che sono stati confiscati, tra cui 20 immobili e 18 aziende, quindi insomma si parla, Bologna alla fine è una città, 38 beni confiscati, insomma non sono pochi. Tra l'altro in alcuni posti molto eccellenti all'interno della città. Esatto. Come ad esempio, Stefano? La Galleria Falcone Borsellino, che questo è incredibile. Sembra paradossale, ma è così. Che fine fanno però questi beni confiscati? Appunto, non dimentichiamo che l'iter legislativo attuale per la riassegnazione dei beni confiscati alla mafia, di cui Libera spesso si fa tramite o comunque si occupa, è ancora molto lungo e difficile. Mediamente sono necessari 8 anni affinché un bene confiscato sia riassegnato ad esempio a una cooperativa e venga riutilizzato per un nuovo scopo o comunque sfruttato a scopo sociale. E non dimentichiamo che comunque la partecipazione dei giovani, cioè l'essere attivi, insomma sono battaglie che riguardano tutti. Infatti Cami, tu sei proprio andata in prima persona, cioè non fai solo chiacchiere, tu sei proprio andata a zappare la terra, a zappare la braccia terra. Rubate all'agricoltura. No, il riferimento che faceva Sara prima è a un'esperienza che ho avuto questa ultima estate in Sicilia, in un campo di volontariato organizzato da Libera. Dove? A San Giuseppe Jato, per l'esattezza. Ma dove sono andato 4 anni fa io? Manco solo io, adesso ci andrò. Mi rubi pure questo primato. Si tratta appunto di una serie di terreni coltivati a vite, confiscati alla famiglia Brusca. Questi terreni sono stati riassegnati a una cooperativa sociale, la cooperativa Placido Rizzotto, che appunto li coltiva a vigneto per produrre il vino Placido Rizzotto, che porta appunto questo nome e viene venduto con il marchio di Libera Terra, appunto. Libera in questi terreni organizza poi dei campi di volontariato che portano il nome di Estate Liberi, campi che ospitano volontari da tutta Italia che contribuiscono appunto con la forza bruta delle loro braccia al progetto in atto. Un altro bel esempio di bene confiscato e riassegnato è l'ora attivo centro di ortopedia e traumatologia a Villa Santa Teresa di Bagaria, che era una struttura sanitaria che è stata confiscata a Michele Aiello, che è stato un prestanome del boss mafioso Bernardo Provenzano, e si tratta appunto di un centro ortopedico di eccellenza con 80 posti letto e attrezzature all'avanguardia, che è stato costituito in collaborazione con l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ed è stato un progetto un grande progetto di lode, perché comunque sia sì. Tu utilizzi una struttura di sanità fondata sulla criminalità organizzata come questo vecchio bene appunto di Aiello, ed è stato utilizzato per uno scopo benefico, ossia la salute, la tutela della salute. La salute, però la salute è quella giusta sostanzialmente. E insomma, se ne parla sempre poco di questi successi ed è giusto ricordarli in questa puntata. Prima di lanciare la prossima canzone, invece, volevo fare un riferimento a una delle ultime campagne promosse da Libera, che si chiama Impresa Bene Comune, quindi anche qui ritorna questa parola, il bene comune, che è una campagna promossa da Libera con Union Camp, Infocamere, varie organizzazioni del mondo economico e sindacale e insomma della cosiddetta finanza etica, e per portare avanti un percorso sulla responsabilità di impresa, sulla legalità. Si vuole coinvolgere il sistema imprenditoriale sano, insomma quello, il made in Italy sano, per condividere esperienze di successo e metterle a servizio del recupero e della salvaguardia delle aziende che sono state sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Tutto questo per arrivare a uno sviluppo economico, ripeto, sano, uno sviluppo economico legale, dove ci sia la tutela del lavoro, la tutela dei lavoratori, insomma, che anche questo insomma, diciamo che è un bene comune, ecco. E Ste, lanci la prossima canzone. Ok, stiamo per ascoltare Shake a Tail Feather di Ray Charles. You've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I got baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Shame. Allora, io concluderei questa puntata parlando di una storia molto bella che mi ha colpito molto, che è una storia che è successa a Roma, ma comunque insomma riguarda comunque tutti noi, ed è la storia del Teatro Valle di Roma. Abbiamo letto un articolo molto, molto interessante che ci ha parlato di questa storia, anche se comunque l'avevamo già sentita, però non sapevamo bene come si fosse svolta nel dettaglio, di Giuseppe De Marzo, che è responsabile di un'altra campagna di Libera, Miseria Ladra, e Giuseppe De Marzo ci parla di questo teatro che è il teatro più antico della capitale, un teatro che è ancora in attività dal 1727, quindi insomma si parla di un teatro storico, e però nel 2011, con la dismissione dell'ente teatrale italiano, il teatro appunto era destinato praticamente alla chiusura. Infatti il 19 maggio del 2011 le porte del teatro vengono chiuse, e pochissimo tempo dopo, si parla del 14 giugno, il teatro inizia ad essere occupato da tutti i lavoratori, i lavoratori e le lavoratrici che appunto insomma che ci lavoravano, o anche dalle persone semplicemente interessate a far sopravvivere questo pezzo di storia, questo pezzo di cultura, e da allora lo mantengono pubblico, e quindi è un teatro che è aperto, viene gestito attraverso la partecipazione popolare, e addirittura quest'anno nel 2014 ha vinto il premio speciale UBU come come grande esempio di una possibilità di vivere il teatro come bene comune. E infatti, appunto, quando si dice, no, con la cultura non si mangia, una frase purtroppo infelice, molto famosa e molto abusata. In realtà qua vediamo che oltretutto Libera, tra l'altro, è andata recentemente, intorno al 15 marzo, con i propri rappresentanti a supportare questa casa, a supportare questo progetto. E quindi c'è stato un bel incontro del mondo dell'antimafia sociale con la cultura indipendente, con una cultura indipendente dai vincoli asfissianti del mercato, insomma, del mercato che ci regola oggi. E quindi, insomma, mi piaceva chiudere questa puntata, poi appunto Cami e Stefano ci parleranno poi di come porteremo avanti il tema nelle puntate seguenti, di chiudere questa puntata con una riflessione, cioè che in un momento di precarietà, di povertà, l'arte in realtà diventa un grande strumento per uscire dall'esclusione sociale, un grande strumento di rivolta, comunque di opposizione. Sì, anche perché appunto da questo momento di crisi che stiamo vivendo da ormai 6 anni è nata una nuova riflessione in ambito del bene comune, perché il bene comune, abbiamo capito che è una cosa come popolazione, stiamo capendo anche, un esempio lampante appunto il referendum di cui parlavamo prima, abbiamo capito che è una cosa importante, una cosa che va tutelata. E infatti attorno a tutto questo bene che ci circonda, che è pubblico, che è di tutti, si stanno creando dei grandi movimenti che si occupano appunto della loro tutela e della loro valorizzazione, ed è una cosa che va in direzione della giustizia sociale, che l'associazione di cui noi facciamo parte va sostanzialmente, è una cosa che bisogna sfruttare, è una cosa che i luoghi vanno vissuti, non vanno lasciati in una teca. Ed è proprio di questo di cui vorremmo parlarvi nelle prossime puntate. Vorremmo parlarvene però con un occhio più attento e più focalizzato sulla realtà bolognese. Ad esempio, nella prossima puntata vi parleremo della realtà del Senza Filtro e di quella del centro studio occupato terzo piano di via Ernerio, che sono due realtà nelle quali degli spazi pubblici inutilizzati e spesso degradati sono stati recuperati e restituiti alla società bolognese grazie all'impegno di associazioni e di movimenti popolari, fondamentalmente di liberi cittadini. E nella puntata conclusiva, in pratica, parleremo delle associazioni universitarie che operano appunto nel nostro Ateneo, perché riteniamo che comunque sia anche l'università sia un bene comune da utilizzare, da saper utilizzare con criterio. e saper valorizzare. Bene, allora noi vi salutiamo e vi lasciamo con l'ultimo pezzo che lancia Cami. E ascoltiamo adesso Canzone contro la natura degli Zen Circus. Ciao! Ciao a tutti! Fosse tutto ciò che ti rimane e da mangiare non avessi neanche un po' di pane. Se la natura fosse solo un po' più cattiva e il sole ti esplodesse in faccia appena fa mattina. Se gli animali cominciassero ad organizzarsi e lentamente progettassero di sterminarci. Se non ci fosse alcun giudizio universale, in quale modo scinderesti il bene dal male? E quando l'ultimo sarà vuoto e la tecnologia ci servirà per fare un fuoco. Nella musica, la musica sarà un ricordo e un mondo sordo. Questa è la canzone contro la natura. Quella che davvero fa paura. Che porti addosso da un po' dal momento esatto in cui hai messo piede sulla terra. E voluto di che fosse libero se ricordi ogni giorno che siamo sempre stati in guerra. L'universo è come te, ordine senza potere. Chilometri di spazio fra i sistemi, miliardi di stelle, miliardi di trilioni di pianeti. E tu mi chiedi cosa ci facciamo qui? Che è solo lunedì e ci ammazziamo già nella tristezza cosmica che tu chiami città. E questa è l'ironia, un certo non so che. La natura ci disprezza ed il resto viene da sé. Questa è la canzone contro la natura. Nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura. E questo sino dal primo momento, sino dal primo momento, l'atto di civiltà che è un atto di prepotenza umana sulla natura, è un atto contro natura.